Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aggressione degli operatori sanitari, la testimonianza della lavoratrice del CUP di Udine sfuggita d'un soffio alla furia di un utente. Attività commerciali camuffate da associazioni sportive dilettantistiche in provincia di Trieste, le fiamme gialle scoprono quattro realtà che eludevano gli obblighi fiscali. Autorità portuale, in arrivo la nomina del presidente, potrebbe sbloccarsi entro la prossima settimana. La questione Gurrieri. Traffico da bollino rosso nel fine settimana sulla rete di autostrade Alto Adriatico, il record storico di transiti il 20 giugno. Electrolux, volumi al di sotto delle attese, si preparano settimane da cura dimagrante negli stabilimenti del gruppo. Più verde nel centro cittadino per combattere le temperature torride, la proposta delle associazioni ambientaliste al comune di Trieste. Teatro Nuovo di Udine, varata la nuova stagione, poco fa la presentazione del cartellone. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marušić. Le aggressioni ai lavoratori della sanità ancora in primo piano. Il sindacato FIALS ha reso noto questa mattina un nuovo episodio accaduto a Trieste nella giornata di ieri. In un centro di salute mentale un'operatrice è stata colpita da una sedia scagliata da un utente. Di ieri anche l'episodio al CUP di Udine con una operatrice, Francesca Flauniacco, udinese, 54 anni, 22 dei quali di lavoro per l'azienda sanitaria, che se l'è cavata solo grazie alla prontezza di riflessi e al supporto ricevuto dalle altre persone presenti. L'abbiamo intervistata, l'intervista è di Lara Boccalon. Prima volta che le succede? Così grave sì, però ho avuto altri episodi, sempre sia di violenza verbale che di pugni sbattuti contro il vetro, pugni sbattuti sul tavolo e insulti parecchi. Come sta oggi? Ho i postumi. Ieri c'era l'adrenalina, c'era un po' tutta la confusione, oggi non bene, diciamo. Rabbia, sconforto e rabbia. Tanta rabbia per quello che è successo, non lo trovo giusto. Ci può ricostruire com'è andata? C'è poco da dire perché semplicemente la signora è passata davanti all'utente che aveva il numero corretto, non c'era tanta coda, ho semplicemente chiesto alla signora di prendere il numero corretto e le stavo dicendo, visto che aveva solo bisogno di informazioni, eventualmente rivolgersi all'ufficio informazioni se voleva fare più veloce, ma non mi ha dato neanche il tempo, si è subito arrabbiata, ha sbattuto i pugni sul tavolo e ha preso il vetro, l'ha completamente tolto, ha sbattuto per terra, è entrata con la mano per afferrarmi, ma per fortuna sono riuscita a indietreggiare, non so come, velocemente, e non mi ha preso. Era molto violenta e aveva una gran forza. Figli, famiglia, lei? Due figli. Cosa le hanno detto? Come stai, mamma? Se mi avesse presa, non so se sarei qua, perché la sua intenzione era quella di sbattere la mia testa contro lo sportello. Come ci si sente a lavorare così? Male. Ci si sente deboli, indifesi, non sai come reagire, perché questa volta è andata bene, la prossima non lo so. Paura, perché poi ci pensi e dici, se mi aspetta fuori. Lei ha sporto denuncia? Sì, ho sporto denuncia, col supporto anche della mia coordinatrice, anche del direttore. Bisogna denunciare, non bisogna far finta di niente. Attività commerciali camuffate da associazioni sportive dilettantistiche, quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Trieste al termine di un'articolata operazione ispettiva che ha coinvolto 4 ASD in provincia di Trieste. I finanzieri hanno accertato ricavi non dichiarati per oltre 3 milioni e 100 mila euro, imposte su redditi evase per 650 mila euro e un'IVA a debito mai versata per circa mezzo milione. Le associazioni formalmente enti no profit usufruivano irregolarmente del regime fiscale agevolato previsto per il terzo settore, eludendo così il fisco. Le indagini hanno messo in luce l'assenza di elementi essenziali per essere considerati enti associativi, soci fittizi e conti correnti usati dai rappresentanti legali per spese personali per ristoranti e acquisti online. Alla luce degli accertamenti, le ASD sono state inquadrate come vere e proprie imprese commerciali soggette a tutti gli obblighi fiscali previsti dalla legge. Dopo il lungo stallo stanno cominciando a riempirsi le caselle negli organigrammi dei porti italiani e la prossima settimana potrebbe esserci la schiarita definitiva anche per l'autority che comprende gli scali di Trieste e Monfalcone con la nomina alla presidenza dell'attuale commissario Gurrieri. Ancora una settimana di nulla di fatto, ma le prossime due potrebbero essere decisive. Antonio Gurrieri rimane in attesa della nomina della presidenza dell'autorità portuale da parte del Parlamento. Nel frattempo prosegue il suo lavoro di commissario, ruolo leggermente depotenziato ma comunque operativo. Le prossime convocazioni dell'ottava commissione del Senato saranno comunicate oggi, ma è più probabile che si debba aspettare ancora una decina di giorni affinché il porto abbia di nuovo la sua catena di comando dopo più di un anno di commissariamento. A bloccare la nomina rimane un intasamento di altre nomine e di audizioni che riguardano i porti italiani, ma non solo, un puzzle complicato e con decine di caselle da riempire, dove le diverse sensibilità non solo della maggioranza, ma anche all'interno degli stessi partiti, cerca di spuntare qualche posto in più. Nell'ultima settimana alcune tra le più complicate dal punto di vista politico si sarebbero però sbloccate, generando un effetto a catena che potrebbe appunto dare il via libera a Gurrieri. Intanto lo scalo triestino, come già accennato nell'incontro avvenuto mercoledì tra il presidente Fedriga e la delegazione con l'omologo della regione di Odessa, sarà una sorta di hub infrastrutturale per la ricostruzione dell'Ucraina, conflitto finito. La logistica e il sistema porti, interporti, ferrovia del nord-est si è candidato a giocare un ruolo chiave nella fase che varrà a livello globale oltre 500 miliardi di euro. Trieste, ma anche l'interporto di Gorizia, avevano già avuto un ruolo in occasione dello scoppio della guerra durante la riconfigurazione delle filiere industriali ucraine dopo la chiusura dei traffici di acciaio con Mariupol. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale ha approvato lo schema di cessione del ramo infrastrutturale della società in-house Ferrovie Udine Cividale a favore di Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS. L'accordo sarà formalmente sottoscritto a breve e rappresenta l'atto conclusivo di un percorso avviato nel 2020 per garantire una gestione più efficiente e sicura della linea. Ferrovie Udine Cividale continuerà a operare come impresa ferroviaria per il trasporto pubblico locale, mantenendo il proprio ruolo nella gestione del servizio passeggeri sulla tratta. Il ramo infrastrutturale, che comprende impianti, strutture e responsabilità gestionali, sarà invece trasferito a RFI, soggetto già abilitato e strutturato per affrontare la complessità tecnica e normativa della gestione dell'infrastruttura. I numeri del traffico venerdì 20 giugno sulle tratte a pedaggio della rete di autostrade Alto Adriatico sono transitati poco meno di 201.000 mezzi. Il dato è ancora provvisorio, ma se venisse confermato si tratterebbe del record storico. Intanto la concessionaria stima che saranno oltre 350.000 mezzi che transiteranno lungo la sua rete tra domani e domenica. Domani è previsto traffico particolarmente intenso da Bollino Rosso al mattino sulla A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova in direzione Palmanova e sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio sulla A4 in direzione Trieste con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli direzione mare e all'uscita della barriera di Trieste-Lisert. Domenica traffico sostenuto sulla A4 al mattino e al pomeriggio in entrambe le direzioni e probabili rallentamenti e code anche sulla A28 in uscita allo svincolo di Portogruaro. L'intervento dei vigili del fuoco di Trieste e Opicina questa mattina per un principio di incendio sul raccordo autostradale 13 nei pressi dello svincolo di Duino in direzione Trieste. Lo scoppio di uno pneumatico di un tir ha generato delle scintille e la combustione delle vicine sterpaglie. Le fiamme sono state prontamente domate anche con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile. Vigili del fuoco di Trieste lavoro anche nel porticciolo di Grignano per la rimozione di un grosso tronco dove è stato necessario l'uso della gru. Siamo ai temi del lavoro, tornano ad addensarsi le nubi sugli stabilimenti Electrolux, produzione al di sotto delle previsioni nell'ultimo periodo, si avvicinano settimane difficili per Porcia. I segnali di ripresa del mercato dell'elettrodomestico nel primo trimestre dell'anno si sono rivelati un fuoco di paglia almeno per Electrolux, con Porcia che resta lo stabilimento più in difficoltà. Nonostante un mese di luglio con volumi in crescita rispetto a giugno, fermo a 58.000 pezzi, le previsioni indicano che la ripresa non si è consolidata. Gianni Piccinin, FIM CISL. Non è stata una vera ripresa, è più un fuoco di paglia in un momento evidentemente di più richieste, quindi il mercato ha reagito in maniera positiva. Ad oggi la situazione soprattutto a Porcia rispetto al mondo Electrolux è quella un po' più complicata per il tipo di prodotto. Preoccupa i sindacati anche la situazione di Savio Macchine Tessili, 340 dipendenti a Pordenone, attualmente in cassa integrazione e con volumi passati dalle 60-70.000 testine alle 20.000 attuali. Ancora piccinin. Il mercato è sicuramente in calo. Devo anche aggiungere che ci sono delle scelte industriali da parte di Savio di spostare una parte della produzione in Cina, che è il mercato quello un po' più fiorente, ma abbiamo la necessità di mettere in moto nuovi prodotti e andare a prendere mercati dove oggi non ci siamo. Siamo veramente preoccupati, è una fabbrica di 350-340 dipendenti, una buona parte a livello impiegatizio, però noi dobbiamo assolutamente guardare in prospettiva, in futuro. In questo momento la situazione non è rosea. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nuovo tachigrafo intelligente, suo corretto uso e tutte le novità del codice della strada sono stati al centro di un confronto organizzato nei giorni scorsi dagli autotrasportatori di Confartigianato in collaborazione con la Polizia Stradale. L'incontro ha inaugurato una serie di appuntamenti a scadenza periodica che l'organizzazione allestirà per tenere aggiornate le imprese associate in merito all'evoluzione della normativa di settore. Il prossimo incontro si terrà in autunno. Il comune di Clout avvia un'importante opera di riqualificazione urbana con la demolizione dell'ex albergo Posta situato nel cuore del paese in piazza San Giorgio. La struttura da tempo in stato di abbandono e pericolante sarà rimossa e al suo posto sorgerà un'area al coperto a disposizione di valigiani e turisti. I lavori avranno un costo complessivo di 100.000 euro. L'intervento sarà affidato tramite procedura semplificata per garantirne l'efficace e rapida esecuzione. Una rete di associazioni ambientaliste lancia a Trieste l'invito all'amministrazione comunale di aumentare gli spazi verdi nel centro cittadino. È un modo per combattere le alte temperature, sensibilmente più elevate, ma anche nelle zone periferiche. Invitare l'amministrazione comunale a un confronto per costruire una città con più verde come misura di adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico è l'appello lanciato con una lettera aperta ai cittadini di una rete di associazioni ambientaliste triestine, Trieste Bella, Legambiente, WWF, LIPU, ISDE, Medici per l'Ambiente, che l'hanno presentato in Largo Santos. Un'iniziativa nata dopo la diffusione il mese scorso di uno studio di CNR e ISPRA che indicava il capoluogo regionale come il terzo in Italia per il fenomeno delle isole di calore, dove cioè la differenza fra la temperatura della periferia e quella del centro, in cui solitamente c'è meno verde urbano, è maggiore, ben 4,8 gradi in più. La ricerca suggeriva inoltre che un incremento del 5% della copertura arborea consentirebbe di abbassare la temperatura di mezzo grado. Maurizio Ferluga, dell'associazione Trieste Bella. Intendiamo sviluppare e stimolare in modo pressante l'amministrazione comunale ad affrontare il discorso del verde pubblico. La raccolta delle firme comincia adesso. Invitiamo i cittadini a partecipare a questa raccolta di firme online per, speriamo, siano numerosi. Il primo passo, dicono gli ambientalisti, è la collaborazione con gli enti scientifici del territorio per mappare le isole di calore. Sandra Giurisevic del WWF Friuli Venezia Giulia. Individuando le aree permeabilizzate e impermeabilizzate si potrebbe appunto venirne fuori e costruire questa mappa. È un punto di partenza essenziale per poter poi ovviamente pianificare gli interventi sul verde. Fondamentale poi è la pianificazione degli interventi. Renato La Rosa di Legambiente. Fare un piano di adattamento climatico che comprenda vera e propria infrastruttura verde, non di pezzettini di verde. Intanto le associazioni hanno già individuato alcune aree in cui si potrebbe aumentare la superficie arborea, lo stesso Largo Santos, Largo Sonnino, Piazzale Valmaura, Piazza Perugino, Piazza Ponte Rosso. Da parte sua, l'assessore alle politiche del territorio Babuder afferma che il tema è già stato trattato più volte e proprio il suo assessorato, ricorda, ha bloccato l'urbanizzazione di 11 aree cittadine. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12:44, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo coperto su tutto il Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle ore 11. A Trieste 24 gradi, mare quasi calmo con temperature di 26 gradi. A Udine e a Gorizia 24,5, a Pordenone 24, nell'area montana a Tolmezzo 21,5. A Tarvisio 16 gradi, a Sappada 15,5, a Forni di Sopra 18, sul Piancavallo 15 e in quota sullo Zoncolan 11 gradi, sull'Ussari 9. Tornando sulla costa a Grado 25, temperatura del mare 25 gradi, a Lignano 24, temperatura del mare 24. E sarà un fine settimana all'insegna dell'instabilità, ci racconta di più sul meteo per i prossimi giorni Giuseppe Visalli dell'ARPA. Nel fine settimana continuerà a essere presente una depressione sull'Europa centro-orientale che determinerà il passaggio di alcuni deboli fronti sulla Friuli Venezia Giulia, contraddistinti da aria più fresca in quota e umidità, quindi instabilità atmosferica, che si manifesterà già a partire appunto dal pomeriggio sera di oggi con rovesci e temporali sparsi che potranno interessare soprattutto la zona montana e la pianura e poi estendersi anche alla costa entro la sera. E i venti soffieranno a deboli regime di brezza, temperature sotto la media del periodo con valori massimi non oltre i 27 gradi. Sabato invece avremo cielo sereno poco nuvoloso al mattino, tempo stabile con fino almeno al primo pomeriggio, poi di nuovo si avrà un peggioramento del tempo a partire dalla zona montana, con rovesci temporali sparsi e un aumento della nuvolosità che si estenderanno poi nel corso del pomeriggio sera anche alla pianura e alla costa, con minor probabilità. Comunque qualche temporale potrà essere localmente più forte, con raffiche di vento. Soffieranno ancora venti deboli e regime di brezza. Temperature minime domani tra 13 e 16 gradi in pianura, tra 16 e 19 gradi sulla costa, massime non oltre 27 gradi sulla pianura e 25 gradi sulla costa. Per quanto riguarda la giornata di domenica, dopo qualche temporale residuo della notte, si avrà un miglioramento del tempo in mattinata, ripeggiora nel corso del pomeriggio con rovesci e temporali sparsi di nuovo dalla zona montana che si estenderanno alla pianura e con minor probabilità anche verso la costa. Ancora venti deboli a regime di brezza, temperature stazionarie ancora sotto la media del periodo. La pagina della cultura e degli spettacoli a Udine è stata presentata questa mattina alla nuova stagione del Teatro Nuovo, apertura a metà ottobre con la prosa Pirandello. 60 appuntamenti in cartellone, 90 alzate di sipario tra prosa, musical, opera, operetta, danza, lezioni di storia e scienze. Questi i numeri della prossima stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il direttore artistico per la parte della prosa, Roberto Valerio, ha annunciato una prima nazionale. Lo stesso Valerio, da regista, metterà in scena L'uomo, la bestia e la virtù, commedia di Luigi Pirandello. 10 giorni di prove nel teatro precederanno la prima del 16 ottobre, giorno dell'inaugurazione. Le prove saranno aperte al pubblico. Un'altra prima assoluta per la musica, con un progetto di residenza dell'Orchestra Mozart di Daniele Gatti, fondata da Claudio Abbado. Una prima anche nel musical, con 55 secondi, progetto della direttrice artistica Fiorenza Cedolins. Lo spettacolo andrà in scena il 6 maggio, 50° anniversario del terremoto del Friuli. Per gli 800 anni della morte di San Francesco, due eventi con lo storico Alessandro Barbera e con il cantautore Simone Cristicchi. Tra i nomi più noti della prosa spicca Gabriele Muccino al debutto con la regia teatrale, mentre Lorella Cuccarini sarà la stella del classico Aggiungi un posto a tavola. Altri nomi pop sono Ale Franz e Drusilla Foer. Nella scorsa stagione si sono staccati oltre 60.000 biglietti con una crescita del 15%. Campagna abbonamenti al via il 2 settembre. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E Alessandro Bergonzoni con Arrivano i Dunque, poi Luca Bizzarri con Non hanno un amico due, Enzo De Caro con un omaggio a Renato Carosone, ancora Veronica Pivetti e Andrea Pennacchi, questi alcuni dei protagonisti della prossima stagione della Contrada di Trieste, che ha anticipato i primi appuntamenti del cartellone 2025-26 tra fuori abbonamento ed eventi speciali. Sono 9 i titoli già in vendita online presso Ticket Point. Sul fronte della risata, attesi anche la coppia Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Arianna Porcelli Safonov e i comici di Zelig e Colorado. Gli eventi speciali si apriranno con L'inferiorità mentale della donna di Giovanna Gra, spettacolo di grande impatto prodotto da artisti associati di Gorizia per l'interpretazione di Veronica Pivetti e Anselmo Luisi, una acuta riflessione sui pregiudizi di genere. Al Museo Etnografico del Friuli di Udine il 17 sarà presentato il catalogo della mostra Qui altrove, migrazioni d'oggi in Friuli, visitabile fino al 28 settembre. Il volume, arricchito da contributi etnografici, fotografie e infografiche, documenta il progetto di ricerca partecipativa avviato dal museo. Una sua parte dedicata anche al podcast originale legato alla mostra. Ne abbiamo parlato con una delle curatrici del progetto, Caterina Vidon. Vengono proposti i risultati della ricerca storico-scientifica in tema di mobilità, migrazioni in entrata e in uscita sia a livello nazionale sia la realtà della nostra regione del Friuli Venezia Giulia. Trovano spazio poi la trascrizione delle interviste che abbiamo condotto ai testimoni. Un capitolo importante è dedicato anche alla migrazione nel passato. Non possiamo prescindere da quanto è stato, anzi è fondamentale fondamentale per capire anche il fenomeno attuale. Si è cercato anche di documentare il percorso di ricerca, anche questo è un vero e proprio viaggio, avete dato un nome interno a questo volume anche. Sì, il volume noi l'abbiamo sempre chiamato Diario di Bordo per testimoniare il viaggio che abbiamo compiuto con questo progetto nella ricerca e nell'indagine di un fenomeno che è quello della mobilità, chiamiamola, quindi migrazione e immigrazione in chiave odierna, per affrontare appunto questo tema che è discusso a grandi livelli ma forse poco compreso, e la finalità è proprio questa: dare testimonianza, dare contezza di i risultati che abbiamo ottenuto e trasmettere tutte le testimonianze, perché sono le voci fondamentali per poter indagare questo fenomeno. E poi una sezione del catalogo dedicata anche al podcast che si lega al progetto, una nuova puntata ogni venerdì. Quest'oggi chi sarà l'ospite? Il presidente dell'associazione Ente Friuli nel Mondo, Franco Jacob, che ci ha rilasciato un'intervista, e come lui saranno presenti altre associazioni che si occupano del tema del fenomeno dell'emigrazione come punto di ritrovo dei friulani, dei giuliani all'estero, ma anche altri studiosi quali l'antropologa Giustina Selvello e il pubblicista Massimo Deliva, che abbiamo interrogato e con loro abbiamo cercato di riflettere sul fenomeno in chiave moderna. In chiusura una notizia di sport: pallanuoto, esordio vincente del Sette Rose ai mondiali di Singapore, le italiane hanno battuto 14-9 la Nuova Zelanda, avvio titubante dell'Italia con le avversarie in doppio vantaggio e poi avanti fino alle soglie dell'ultimo quarto, quando la squadra azzurra ha ingranato la marcia giusta e travolto la Nuova Zelanda. Della squadra di Carlo Silipo fanno parte anche tre atlete della pallanuoto Trieste, si tratta di Lucrezia Lis Cergol, di Veronica Gante e Sara Cordovani. Prossimo impegno per il Sette Rosa domenica contro l'Australia. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Marco Ferrito. Sono le 12:52 in punto, la prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.